come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:37 minuti, 800 24 00 24, il numero per chiamarci in diretta con voi fino alle 20:45 per commentare i fatti del giorno. Naturalmente c'è anche il 349-238-6666 per i messaggi e la mail lazanzara@radio24.it. Studio aperto, titoli. Tensione altissima in Iran, il Consiglio dei Guardiani della Rivoluzione è pronto a ricontare i voti delle presidenziali, ma avverte, le elezioni non si ripetono. Il mondo guarda Teheran, in corso due manifestazioni contrapposte, i sostenitori del moderato Mousavi in marcia verso la TV di Stato, in piazza migliaia di fedelissimi di Ahmadinejad, aggiornamenti in diretta. Sono 3 tunisini indagati a Milano per terrorismo e detenuti in arrivo da Guantanamo. Questo l'accordo siglato da Berlusconi ed Obama. Il premier è rientrato mentre a Roma la procura chiede l'archiviazione sulla vicenda dei voli di Stato. Non ci fu alcun abuso. Ho chiesto giustizia, non ho cercato vendette. A Studio Aperto parla la vittima dello stupro di Capodanno dopo la condanna a 2 anni e 8 mesi del suo aguzzino. È stata una violenza brutale, racconta la giovane, e lui adesso pagherà. Video shock, poliziotti nei guai a Londra, sono stati ripresi mentre colpiscono un uomo con il taser, la pistola elettrica che scarica 50.000 volt. A Napoli. Bene, bene, 18:38, 800 24 00 24. Succede questo a Napoli, fra poco sentirete questo brevissimo servizio di Studio Aperto. Per una volta iniziamo con qualcosa che non riguarda la politica. Dicevo, succede questo a Napoli, al comune di Napoli, al corpo dei vigili urbani di Napoli. Credo però che senza essere codificato, come stanno cercando di fare a Napoli, come vorrebbe fare il vicecomandante della Polizia Municipale, sia un'usanza un po' di molte città italiane, soprattutto grandi centri, non solo però, credo anche di piccoli centri, sentite. Più multe fai, più farai carriera. Questo è in sintesi il contenuto di una circolare del vicecomandante dei vigili di Napoli, colonnello Antonietta Agliata, arrivata a tutti i dipendenti della municipale. La direttiva ha creato una vera e propria bufera tra i vigili urbani, che hanno subito chiesto l'intervento del comune. E intanto prende le distanze il generale comandante del corpo. È stata una decisione dell'Agliata, dice. Non insomma, più multe fai, più fai carriera. Questo sarebbe stato deciso dal corpo della Polizia Municipale di Napoli. 800 24 00 24. Passiamo alla campagna elettorale di Bologna. Cosa sta succedendo? Attacchi a tutto spiano tra i due contendenti, Del Bono, largamente favorito del Partito Democratico, e Cazzola del PDL. Attacchi che hanno al centro la parola moralità. Se ne è discusso molto per quello che riguarda Cazzola, adesso se ne discute per quello che riguarda Del Bono. Una questione è quella di i viaggi fatti insieme alla ex fidanzata, tirata fuori dallo stesso Del Bono. Secondo me è un livello molto basso raggiunto dalla campagna elettorale bolognese. Sentite oggi ad una radio locale bolognese. Se dobbiamo parlare di moralità, allora io vorrei precisare che anche chi mi sta di fronte in questo momento dovrà probabilmente scusarsi della sua moralità. E credo che da questo punto di vista sia ora anche di aprire un po' argomenti che non sono mai stati toccati sino ad oggi. Voglio dire, io ho potenziali, diciamo, considerazioni da fare su questo fronte che mi sembrano del tutto pertinenti. Cioè, sulla moralità di un amministratore, io credo che anche Flavio Del Bono debba avere qualcosa da cui discutere. E intanto gli porgo a lui i saluti della signora Cinzia, che è la sua ex compagna, sulla quale ha tantissimo da dire in merito alla moralità del signor Flavio Del Bono in questo termine. E di questo argomento io mi sono veramente scocciato, perché da questo punto di vista credo che, cioè, noi dobbiamo assolutamente avere tutti idea di chi potrà essere giustamente la morale o la capacità di un primo cittadino che deve governare la città. E da questo punto di vista io non ho nulla da nascondere, perché sono stato assolutamente trasparente. Vorrei che la stessa cosa fosse fatta in maniera chiara e ineccepibile anche nei confronti del candidato Flavio Del Bono, perché anche il candidato Flavio Del Bono, secondo me, quello che ne so io, cioè, deve in qualche modo rispondere ai cittadini bolognesi della sua moralità e della moralità con cui lui ha svolto azioni impegnative e importanti nell'ambito del ruolo che ha sostenuto sino ad oggi dentro a realtà come la Regione Emilia-Romagna o l'assessorato del Comune di Bologna. Insomma, avete sentito la signora Cinzia che la sua ex compagna ha tantissimo da dire in merito alla moralità di Del Bono. È apparso subito come un attacco personale alla vita privata. Sentiamo la risposta di Del Bono. Non ho commesso sicuramente nessuna infrazione, nessun reato, non ho niente di cui debbo render conto per quanto riguarda la mia vita privata o eventuali convinzioni. Beh, adesso vedrà che verrà chiamato a rendere conto. Dovete aggiungere qualcos'altro? Possiamo cambiare il tema? Verrà chiamato a rendere conto perché è giusto che anche il signor Marco sappia esattamente con chi ci troviamo di fronte. Vuole aggiungere qualcosa? Se no noi cambiamo argomento, prego. Non ho altro da aggiungere. Del Bono? Niente. Va bene, 800 24 00 24. La vicenda Guantanamo, che è la vicenda dei detenuti di Guantanamo che gli Stati Uniti stanno cercando di sbolognare un po' a diversi paesi, tra cui l'Italia. Accordi presi tra Obama e Berlusconi, almeno così sembra. Il governo però dovrebbe decidersi un po' a parlare una sola voce, perché da una parte Berlusconi, sentite. Vogliamo essere in prima fila, anzi vogliamo essere il primo paese che dà una mano per quanto riguarda la necessaria chiusura del forte della prigione di Guantanamo. Dall'altra il ministro degli interni Maroni, che ribadisce di essere contrario, non so quanto poi potrà agire concretamente, contrario ai detenuti all'arrivo in Italia di due, tre, si parla di tre, forse tunisini ex o attualmente detenuti a Guantanamo. Non siamo tanto d'accordo su un'altra questione, cioè su prendersi in carico i detenuti di Guantanamo, però su questa purtroppo anche qui l'Europa ha dimostrato di non esserci. Ogni paese va per conto suo e il alla problema... fine potremmo essere costretti, dicevi. No, il problema è che se anche l'Italia non li prende la Francia, proprio perché, come ho detto prima, siamo poi ce li mandano Schengen. Con l'accordo di Schengen. Esatto, arrivano senza che noi possiamo far nulla per impedirlo, no? Una presa in giro. Questo era Maroni su Guantanamo, proprio nel giorno in cui Berlusconi vedeva Obama. Insomma, io credo che i due debbano mettersi d'accordo e parlare con una sola voce. E poi non vedo perché non dovremmo collaborare a questa dismissione di Guantanamo, così voluta anche dall'opinione pubblica mondiale, in particolare in Italia. Vi faccio ascoltare adesso cosa è accaduto ieri durante la presentazione di un libro di Mario Giordano sulla scuola, il direttore del giornale, in una libreria Mondadori, una delle librerie Mondadori a Milano. Era ospite il ministro Gelmini. E, insomma, questa presentazione alla fine non si è potuta tenere perché un gruppo di persone che non sono abituate al dialogo, ma solo evidentemente alla caciara, alla protesta e nient'altro, hanno accolto sia Giordano che il ministro Gelmini con slogan, proteste, urla, manifesti. Sentiamo. Questo accade in Italia in una libreria al centro di Milano. Uno dei protagonisti di questa gazzarra si chiama Paolo Limonta, dice oggi al giornale: bello zittire il ministro, domani lo dico ai miei allievi. Prima di darvi la parola voglio leggervi un articolo che ho tirato fuori oggi dal giornale. La rubrica è Cane da guardia, autore Mario Cervi, un articolo secondo me particolarmente efficace a proposito di un nostro amico, so che ci segue, ci ascolta spesso, che è Matteo Salvini, deputato della Lega. Padania is not Italy, ma chi ha dato alla Lega la licenza di trasgredire? Padania is not Italy è la scritta che campeggia sulla maglietta di Matteo Salvini al raduno leghista di Pontida, ma non solo al raduno leghista di Pontida, aggiungo io. Qualcosina da eccepire, a mio avviso, scrive Cervi, c'è. La Lega ha una licenza di trasgredire non si sa da chi rilasciata, ma è difficile conciliare il sentimento leghista sintetizzato nella maglietta salviniana con i doveri del ministro dell'interno Maroni, cui è delegato il compito di tutelare le istituzioni democratiche di quell'entità politica che ha nome Italia e non Padania. Il ministro dell'interno si sente straniero, avverte disagio per la necessità di parlare e agire in nome di una entità che gli ripugna? Niente di personale, ma vorremmo sapere qualcosa in merito. Ora, si può rispondere a Cervi che una cosa è Salvini, una cosa è il ministro degli interni, evidentemente. Però, a mio avviso, il problema riguarda proprio Salvini, non le posizioni di Maroni. Giustamente le due persone sono sono due persone distinte e Maroni non ha mai indossato una maglietta di questo tipo, ma uno come Salvini, che è stato eletto anche al Parlamento europeo con una montagna di voti peraltro, ed è parlamentare della Repubblica Italiana, può andare in giro con una maglietta parlamentare della Repubblica Italiana, non parlamentare della Repubblica della Padania? Può andare in giro con una maglietta in cui c'è scritto quasi, evidentemente con grande enfasi e soddisfazione, Padania is not Italy? E dove sta scritto che Padania is not Italy? Paolo, provincia di Milano, buonasera. Sì, buonasera a lei, Cruciani. Niente, volevo portare una testimonianza in diretta, riportatami però da una persona fidata, su l'argomento delle multe legate alla carriera dei vigili urbani. Niente, posso testimoniare che comunque una persona che appunto si occupa, diciamo che ha come professione quella di vigile urbano, diciamo neoassunto, si ritrova in un grosso comune nell'Interland milanese nella condizione di dover continuamente giustificare nei confronti dei propri colleghi il fatto che il comandante continua a fargli notare il fatto che praticamente fa troppe poche multe e se ci tiene alla carriera effettivamente deve praticamente darsi da fare. Quindi queste diciamo così, cioè quello che succede a Napoli, quello che succede a Napoli secondo lei in realtà succede anche da altre parti? Guarda, non si danno i premi, non si fa carriera se non si fanno anche molte multe, sì, tra i vigili urbani? Ovviamente sono cose che vengono nemmeno tanto velatamente lasciate intendere, riportate ovviamente sempre verbalmente, mai niente di ufficialmente. D'altra parte sarebbe la conseguenza logica del fatto che spesso i comuni fanno cassa con... Ormai ecco, fanno cassa con le multe. Volevo, se permette, allacciarmi anche a questo discorso che recentemente mi ha coinvolto personalmente. Allora, a fronte di una contestazione per una multa molto, diciamo, di quelle molto contestabili per eccesso di velocità su una provinciale, nemmeno, diciamo, che nemmeno interseca il centro abitato di un piccolo paese, dove praticamente ovviamente questo paese si pone per fare cassa quando ne ha bisogno. Parlando con il vigile urbano vengo a sapere che praticamente la macchina che praticamente esegue le misurazioni di velocità è semplicemente installata a noleggio da queste aziende che percepiscono praticamente una cospicua percentuale, e si parla di circa il 50% della multa, a cottimo, con un contratto a cottimo, dove ovviamente più multe si fanno più l'azienda che noleggia la macchina percepisce soldi dalla vigilanza urbana, e quindi il vigile è spinto, primo perché così spinto da motivi di carriera, secondo perché fa guadagnare tanti soldi all'azienda che poi lo contatta per installare la macchinette. Bene, la ringrazio, Paolo. Fabrizio, molto italiana. Sì, la ringrazio. Fabrizio da Varese, buonasera. Sì, buonasera. Senta, io volevo intervenire per quanto riguarda il discorso della moralità che ha fatto prima. Ho sentito questo battibecco su una radio locale di Bologna. Sì. Io adesso non ho capito bene come la pensi lei, però secondo me assolutamente sì, la moralità deve esserci anche da un punto di vista privato. Cioè, io credo che sia assolutamente doverosa, soprattutto per quanto riguarda una forma istituzionale, perché si candida a governare i cittadini. E credo che sia assolutamente indispensabile questa moralità. Mi faccia un esempio però della trasparenza che ci dovrebbe essere. Lei dice anche sulla vita privata, che significa? Allora, sì, le faccio un esempio che mi ricordo, è un esempio, come posso dire, è riportabile alla Formula 1. Non so se si ricorda che c'era stata quella polemica su Max Mosley, che l'avevano messo trovato. Come no, certo, certo. Ecco, io dico, se dovessero per caso, per l'amor di Dio, trovare un politico che facesse la stessa cosa, assolutamente questo politico si deve dimettere, perché secondo me però moralità... mi scusi Fabrizio, io ho difeso e continuo a difendere in quell'episodio Max Mosley fino alla morte. Cioè, è esattamente l'esempio opposto. Cioè, si trattò di un attacco molto forte, tra l'altro certificato da un tribunale successivamente, alla vita privata, un'intrusione nella vita privata di una persona che naturalmente in questo caso non ha incarichi istituzionali, ma comunque è alla testa di un'organizzazione molto influente e molto importante del mondo dello sport, che è la Formula 1, la Federazione Internazionale della Formula 1, e stiamo vedendo che ruolo ha Mosley in questo momento nei rivolgimenti della Formula 1. E insomma, dopo un attacco così frontale alla vita privata, con quelle foto, quel filmato fatti circolare su internet, Max Mosley è ancora lì in sella, per cui è vero che non è un politico, probabilmente per un politico sarebbe stato molto complicato cavarsela da una cosa di questo tipo, no? No, no, senz'altro, ma infatti io ritengo che in quel caso qua, diciamo così, è un'associazione, se vogliamo dire in un certo senso, magari privata. Peraltro io, voglio dire, se avessi avuto il potere, io sicuramente l'avrei comunque fatto dimettere, perché, ripeto, quello che ha fatto, cioè, poi ognuno, è vero che ognuno poi nelle quattro mura del... Ma ognuno si può fare frustare come vuole, nella propria vita sessuale può avere tutte le perversioni che vuole. Scusi, Fabrizio. Vero, vero. Però mi scusi, lei non crede, poi magari non sarà così, non crede che però se uno ha delle tendenze veramente particolari, cioè nel senso che non si sta parlando di una tendenza normale, cose particolari, poi potrebbe anche queste cose particolari, come dire, condizionarlo nel prendere delle decisioni. Ma guardi, io non so, qualcosa che per lei è particolare, per altre persone è assolutamente normale. Mosley dichiarò apertamente che per lui è assolutamente normale farsi frustare per provare piacere sessuale. Dunque, sa, insomma, da questo punto di vista la normalità e l'anormalità non so come si possa giudicare, soprattutto non so come si possa definire. E io non credo poi che se uno ha certe perversioni sessuali poi nella vita politica possa combinare dei disastri. No, la mia risposta alla sua domanda è no. Stefano da Milano, buonasera. Buonasera, ancora dica. Sul discorso delle multe, dei comuni, eccetera, eccetera. Sì. Un amico caro che di mestiere, diciamo, per arrotondare fa l'ausiliare della sosta, mi racconta del fatto che loro ovviamente non potendo avere percorsi di carriera hanno una ben precisa quota, una ben precisa fetta della multa che rilevano come percentuale all'interno dello stipendio, per cui hanno una retribuzione che è molto bassa come fisso, e poi più multe fanno ovviamente più il loro stipendio sale. Sugli ausiliari, questo non lo sapevo, non sono esperto di regolamentazione all'interno dei vigili urbani, dunque lei mi sta raccontando che gli ausiliari vengono pagati anche, non solo in base alle multe che fanno, è così? No, vengono pagati anche in base alle multe che fanno, cioè anche, hanno un fisso, non solo, ho detto, infatti. Hanno sì. un fisso, e poi a seconda del numero di multe che fanno e dell'importo, quindi ovviamente sì, della sì. contravvenzione rilevata, hanno una provvigione, diciamo, ecco, un bonus. Ho capito, secondo me, io non lo sapevo, ripeto, non sono esperto di regolamenti dei vigili urbani, eccetera, secondo me è sbagliatissimo legare queste due cose, si creano degli effetti perversi, tra l'altro le multe che vengono combinate poi non è necessariamente detto che vengano incassate, ci sono ricorsi, certo. eccetera, eccetera. La ringrazio, ma... titolo del TG3. Tensione alle stelle in Iran dopo i 7 morti di ieri, sfida in piazza tra i riformisti e i fedeli del regime verso la verifica dei voti. Il governatore Draghi sulla crisi, ora serve una strategia per ridurre spese e debito, Fini, l'ottimismo può essere pericoloso. L'antitrust, la crisi non ricada sui consumatori, avanti con le liberalizzazioni, no a tentazioni protezionistiche, critica alle banche. Napolitano convoca al Quirinale i vertici del CSM dopo le dimissioni di alcuni membri di commissione in polemica con il guardasigilli Alfano. L'incontro tra Obama e Berlusconi, il presidente americano, legame forte tra i nostri paesi, voli di Stato, chiesta l'archiviazione. La protesta dei sindaci dei paesi terremotati d'Abruzzo ricevuti alla Camera, Franceschini, il governo ha disatteso gli impegni. Il drammatico video del musicista vittima innocente di una sparatoria di camorra, la sua agonia e la morte tra l'indifferenza della gente. Eccoci qui, sentiamo anche Sky i titoli. Iran dalle urne alla piazza, la sfida continua, cortei pro e contro Ahmadinejad. Patto Obama-Berlusconi su Guantanamo, Frattini apprezza, Maroni contrario. Inflazione ai minimi da 40 anni, Draghi chiede strategie per la ripresa. L'antitrust a difesa dei consumatori, non paghino loro il prezzo della crisi. Ospiti a bordo dei voli di Stato, la procura chiede l'archiviazione per il Premier. Sisma in Abruzzo, i sindaci a Roma per chiedere una svolta nella ricostruzione. Video shock da Napoli, ambulante ferito dai camorristi muore nell'indifferenza. Scontro fra tram a Milano, 6 feriti, è il terzo episodio dallo scorso ottobre. Pena capitale, Pechino cambia ma non la cancella, dalla fucilazione all'iniezione letale. Confederations Cup, l'Italia ai piedi del nuovo Rossi del calcio azzurro. Eccoci qui alle 19.19, 800 24 00 24, dell'archiviazione per i voli di Stato, era largamente attesa per quello che riguarda Berlusconi, avete sentito dai titoli sia di Sky che del TG3. Andiamo a sentire la questione di Guantanamo, perché è abbastanza bizzarra. C'è un accordo che è stato preso da Berlusconi insieme ad Obama, secondo il quale l'Italia si farà carico, come stanno facendo anche altri paesi europei, di alcuni detenuti che usciranno da Guantanamo. Obama si vuole sbarazzare al più presto di questa vicenda, eredità della gestione dell'amministrazione Bush. Ebbene, nello stesso giorno in cui Berlusconi incontrava Obama, il ministro dell'interno Maroni la pensa diversamente. Prima Berlusconi. Vogliamo essere in prima fila, anzi vogliamo essere il primo paese che dà una mano per quanto riguarda la necessaria chiusura del forte della prigione di Guantanamo. Mettetevi d'accordo però, sentiamo Maroni, ministro degli interni. Non siamo tanto d'accordo su un'altra questione, cioè su prendersi in carico i detenuti di Guantanamo, però su questa purtroppo anche qui l'Europa ha dimostrato di non esserci. Ogni paese va per conto suo e alla fine potremmo essere costretti. Diciamo. No, il problema è che se anche l'Italia non li prende, li prende la Francia, proprio perché, come ho detto prima, siamo... Poi ce li mandano Schengen. Con l'accordo di Schengen. Esatto, arrivano senza che noi possiamo far nulla per impedirlo, no? Una presa in giro. E a proposito di Lega, vi ho letto prima, ve lo rileggo, ci sono state diverse sollecitazioni degli ascoltatori dell'articolo di oggi, una parte dell'articolo di oggi di Mario Cervi nella sua rubrica Cane da Guardia sul giornale. Padania is not Italy. Chi ha dato alla Lega la licenza di trasgredire? È una scritta che campeggia sulla maglietta di Matteo Salvini. Matteo Salvini è un deputato della Lega, sempre invitato in varie trasmissioni, un nostro ascoltatore, lo conosco personalmente. Salvini la espone soprattutto al raduno leghista di Pontida, ma non solo. Scrive Cervi, qualcosa da eccepire a mio avviso c'è, la Lega ha una licenza di trasgredire, non si sa da chi rilasciata, ma è difficile conciliare il sentimento leghista sintetizzato nella maglietta salviniana con i doveri del ministro all'interno Maroni. Qui è delegato il compito di tutelare le istituzioni democratiche di quell'entità politica che a nome Italia non Padania. Il ministro dell'interno si sente straniero, avverte disagio per la necessità di parlare e agire in nome di un'entità che gli ripugna. Niente di personale, ma vorremmo sapere qualcosa in merito. Si potrebbe ribattere a Cervi che insomma Maroni e Salvini sono due persone diverse. Il problema secondo me riguarda Salvini, che è deputato della Repubblica nonché europarlamentare, adesso dovrà decidere, e non si capisce perché debba esporre una maglietta di questo tipo. La Padania is Italy, direi io decisamente. Se esistesse un'entità chiamata Padania, e non esiste, si troverebbe comunque in Italia. 800 24 00 24. Una cosa molto grave è accaduta, anche se non se ne è parlato molto perché si è svolta durante il weekend, nell'aula di un tribunale. Nell'aula di un tribunale, il tribunale di Milano, che ha condannato a diversi anni di galera alcuni esponenti delle nuove Brigate Rosse. Naturalmente sono condanne in primo grado, per carità, lo sappiamo benissimo. E quello che è successo a Milano è questo, sentite in questo servizio. "14 condanne, 3 assoluzioni e i brigatisti rossi nelle gabbie con il pugno alzato che cantano l'Internazionale. Dagli spalti del pubblico i cori di amici e parenti, anche loro con il pugno chiuso. Si sono alzati i cori dalle gabbie e dal pubblico presente per la lettura della sentenza. È successo in aula, al processo di primo grado, la colonna che aveva progettato di uccidere il giuslavorista Pietro Ichino. Condannati e costretti a risarcire 100.000 euro al professor Ichino, scampato all'omicidio, che ora si rivolge ai propri brigatisti. Io sono pronto a rinunciare a qualsiasi risarcimento se sono disposti a incontrarsi, come a parlare, riconoscendoci come persone umane e non come bersagli su cui sparare. Fuori dall'aula centinaia di compagni arrivati da tutta Italia. Come vedete qui all'esterno dell'aula bunker c'è un presidio dei compagni del centro sociale Gramigna. Vabbè, questo è successo a Milano sabato. Avete sentito il professor Ichino che ha detto sono disposto a rinunciare al risarcimento di 100.000 euro, vive sotto scorta come sapete da diverso tempo, e se queste persone accettano di incontrarmi per riconoscerci come persone umane. La risposta è apparsa sul sito web di un centro sociale Gramigna, che è un megafono delle posizioni dei membri del Partito Comunista Politico Militare, In questo sito web si respinge l'offerta di Ichino e si ribadisce che Ichino viene considerato un massacratore di operai. Questo succede ancora in Italia nel 2009. Paolo dalla provincia di Milano, eccoci qui. Buonasera. Pronto, buonasera. Io volevo parlare, riallacciandomi al discorso dei vigili urbani di Napoli, e volevo fare due considerazioni. Le multe per fare carriera. Esatto. Più multe fai, più carriera fai, sembra, Così. Sì, sì, ma io volevo fare due considerazioni. Premesso che sono tendenzialmente contrario a questo approccio in cui le istituzioni premiano i propri dipendenti incidendo in questo modo sulla cittadinanza. La prima considerazione che mi sento di fare è sulla responsabilità civile dei cittadini. Sento sempre discorsi, anche prima gli utenti che sono intervenuti a questo riguardo, dicendo: ma hanno fatto la multa, è colpa del vigile che fa cassa. Ho parcheggiato al posto dell'handicappato, è colpa dell'ausiliario che ci guadagna sulla multa. Mai nessuno che dica: sì, andavo a 200 all'ora, oppure ho parcheggiato sul marciapiede dove non dovevo. E questa è la prima considerazione che mi sento di fare. No, ma questa considerazione è molto giusta, Paolo. Sì. E infatti io eviterei di parlare di contenziosi personali. L'approccio in questa vicenda deve essere esclusivamente con l'occhio a quella che è la politica dei comuni e soprattutto al fatto che spesso viene legato il rendimento del singolo vigile urbano al fatto che il vigile urbano faccia un tot di multe. No, questo è sbagliato. Io personalmente sono molto contrario. Rilevo però che ci sono situazioni in cui la coscienza sociale, popolare, in certe zone è evidentemente molto bassa e questo potrebbe in alcuni casi essere una modalità per raggiungere un obiettivo di risocializzazione dell'utenza cittadina. Io credo che, scusi, però Paolo, può darsi che sia così, che con questo stimolo si riesca a fare qualcosa in zone dove il codice della strada non è particolarmente rispettato. Analoga è venuta fuori quando è venuta fuori la patente a punti, non so se si ricorda, anche all'inizio si diceva però la patente a punti è legata a quello che poi avviene concretamente cioè non è che si fa una multa e poi si collega a questa multa un tot di punti che viene tolto. Legare lo stipendio in alcuni casi, quello degli ausiliari, ce lo segnalano anche a Roma. Questo lo trovo fortemente ingiusto e immorale. Lo stipendio e addirittura le possibilità di carriera, come a Napoli, col numero di multe, questo mi sembra una cosa abbastanza perversa, no? No, quello sono d'accordo. Io volevo affrontare la questione da un punto di vista più sociale, a richiamare l'attenzione dei cittadini, che insomma certe volte le colpe ce le hanno gli altri, ma ogni tanto ce le abbiamo anche noi. Insomma. Assolutamente, la ringrazio. Aurelio da Roma, buonasera Aurelio. Salve, buonasera. Io volevo intervenire sulla questione dei detenuti di Guantanamo. Per dire questo, è stato detto Berlusconi, gli è stato chiesto da Obama, tre tunisini vengono in Italia, gli altri dovranno andare altrove. Però io avevo letto un po' di tempo fa, mi sembra proprio su Sole 24 Ore, che per questi tre tunisini i giudici italiani avevano chiesto l'estradizione alle autorità americane. Sì, lo ha detto oggi il giudice Spataro nei confronti di questi tre tunisini. Se saranno questi naturalmente i tre detenuti di Guantanamo che verranno in Italia, ci sono già addirittura dei mandati di cattura, dunque appena arriveranno in Italia saranno arrestati. E allora, se questa qui è un'estradizione che è stata richiesta dai nostri giudici e i magistrati, la giustizia americana la concede, cioè non si capisce cosa c'entrano Berlusconi e Maroni, cioè è una questione di mera attività di giustizia. Allora, No, mi scusi, sono due cose diverse, ci sono dei mandati di cattura in Italia, queste persone sono a Guantanamo, qui non c'è la questione dell'estradizione, da Guantanamo, siccome non è che sono persone che servono evidentemente solo alla giustizia italiana, hanno anche qualcosa a che fare, oppure no, con gli Stati Uniti, essendo a Guantanamo, evidentemente... C'è un accordo tra Italia e Stati Uniti per cui vengono portati in Italia, un accordo raggiunto a livello governativo. Il problema è capire perché Berlusconi e Maroni la pensano diversamente, perché lo dicono in maniera esplicita, almeno Maroni nel giorno dell'incontro con Obama del Presidente del Consiglio dice: fosse per me io non prenderei nessuno. Accanto a me Giancarlo Loquenze, direttore dell'Occidentale.it. Buonasera. Buonasera a te, buonasera agli ascoltatori. E riprendiamo appunto il filo diretto con gli ascoltatori. Davide da Parma, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Io volevo intervenire in merito alla maglietta indossata dal deputato Salvini. Sì. Posto che io penso che sicuramente una persona come Maroni ha uno spessore diverso da quella di Salvini, ecco, senza nulla togliere a lui. Penso che comunque Salvini è simpaticissimo, io voto Lega e voglio che la Lega resti al governo e che ci resti con le potenzialità che può esprimere con persone appunto come Maroni, come altri ministri, vale varie. Sì, Davide, qui non si discute del fatto, scusi un attimo, qui non è che si sta discutendo del fatto che la Lega fa bene o male al governo, o il fatto che lei vuole che la Lega resti al governo, quelli sono affari suoi, non è quello. Fatto un po' un preambolo, Salvini vuole essere provocatore perché purtroppo lui si chiede la Padania in Italia, perché non è che se lo chiede, lo dice, Padania is not Italy, non è la prima volta che espone una maglietta di questo tipo. Sì, ora io dico, finché si è militanti della Lega, noi che votiamo Lega ci chiediamo la Padania in Italia. Allora io voglio essere più provocatore ancora, io mi chiedo, Napoli è in Italia? Palermo è in Italia, io non sono contro il meridione. No, ma Davide, queste sono stupidaggini. Palermo certo e Napoli certo che sono in Italia. Però mi chiedo, evidentemente, se ci sono delle realtà talmente diverse per cui quando a Napoli ci si disegna la cintura di sicurezza sulla maglietta e tutti si mettono a ridere, si va via in tre su una Vespa o su, non si mette il casco o si infrangono le più banali norme, diciamo, questo succede al nord, praticamente immediatamente si è sottoposti a... Vabbè, ma questo, di questo si può discutere tranquillamente, Davide, il punto non è questo. Matteo Salvini è un simpatico e brevissimo deputato della Lega. Ora, finché uno resta un po' nell'ombra, fa il consigliere comunale a Milano, è un militante locale della Lega, va tutto bene. Poi, quando uno comincia ad avere un ruolo più importante, e fa il deputato e adesso è stato eletto con tantissimi voti, centinaia di migliaia di voti sto parlando, al Parlamento Europeo, io credo che uno dovrebbe evitare di indossare una maglietta con scritto Padania is not Italy in una manifestazione. Dico solo questo. Il fatto che poi Mario Cervi faccia una domanda a Maroni, quello mi sembra sbagliato, perché tra Maroni e Salvini insomma c'è una differenza. Comunque non è Maroni che ha indossato una maglietta, Loquenzi. No, sì, anche io resto abbastanza perplesso, anche se bisogna dire che poi Salvini è proprio grazie a queste trovate che prende tantissimi voti e viene eletto, quando fece quella butata sui tram destinati soltanto agli immigrati, fece grande scandalo, i giornali si inorridirono, gli dedicarono pagine e pagine scandalizzate, facendo ovviamente il suo gioco. E infatti ha preso un sacco di voti. E la maglietta è anche questo, secondo me queste cose vanno, secondo me, blandamente condannate, senza alzare troppo il sopracciglio, senza farne una questione retorica, perché poi alla fine quello che lui vuole ottenere, io penso che Salvini non abbia nessuna vera idea su dove sia la Padania, su perché dovrebbe non essere in Italia, su perché ci dovrebbe essere, è la sua cifra di comunicazione, la sua cifra politica, quella di scandalizzare. Più noi ci scandalizziamo, più gli diamo ragione. D'altra parte il fatto che lo dico, ma poi volevo dire all'ascoltatore, quella storia della maglietta con la striscia, con la cintura di sicurezza disegnata, non era vera, se la inventò non è mai stata vera, se la inventò una società di comunicazione napoletana per dimostrare che una cosa di quel genere poteva essere credibile. Infatti ci credettero tutti, ma non è mai esistita. Gabriele da Milano, buonasera. Pronto? Dica. Ah, buonasera. Beh, la domanda che ha fatto Mario Cervi, sì, è una risposta molto semplice. È Berlusconi che gli ha dato questa licenza. Ma che c'entra Berlusconi? Ma Berlusconi è colpevole anche del fatto che Salvini indossa quella maglietta? Abbia pazienza. No, non volevo dire questo. No. No, è il fatto che lui li blandisce, li coccola e quindi questi ne approfittano. No, vabbè, Gabriele, adesso appunto è quello che volevo dire io. Secondo lei Berlusconi è colpevole del fatto che siccome è allenato della Lega e permette alla Lega... No, ma è un paradosso. No, invece è una cosa, sono contento che finalmente qualcuno stigmatizzi questo comportamento e che è un giornalista grande come Mario Cervi sul giornale. Sono contento che lei abbia ripreso, perché altrimenti questa notizia sarebbe sicuramente passata inosservata. Va bene, grazie. Maurizio, prego, provincia di Salerno, buonasera. Sì, Maurizio. Buonasera Cruciani, buonasera alla Zanzara. Sì, tra l'altro non è la prima volta che Salvini indossa quella maglietta, io pure l'avevo visto una volta e conoscendo Salvini conoscendo Salvini non mi sono stupito più di tanto. Poi oggi ho letto questo articolo, allora ve l'ho riproposto. Maurizio, prego. Sì, buonasera. A me piace mettere insieme qualche notizia degli ultimi giorni e provare a trovare un filo rosso. Allora penso soprattutto a Berlusconi e alla sua tirata sul complotto internazionale, discorso fatto poi all'indomani di elezioni sonoramente vinte. Penso ma in realtà non ha parlato di internazionale, ha parlato di... Sì, vabbè, complotto, poi si è riferito ai gruppi di pressione, alla stampa pilotata da Murdoch, cioè, ha allargato un po' il discorso a varie fonti, qualcuno tra le sue... Davanti ai giovani, industriali. Di omicidio politico, sì, presso i giovani industriali, vero. Qualcun altro ha parlato di tentativo di omicidio politico. D'Alema ha risposto in una partita ping pong con il discorso delle scosse, poi argomentandolo variamente. Francamente io penso che se c'è qualcuno che ha qualcosa, che sa qualcosa di così importante, che siano complotti o che siano scosse, io credo che il luogo più opportuno per denunciare i complotti e per denunciare le scosse sia il Parlamento. E in tutto questo, francamente, noto grande irritazione e profondo fastidio, uno spregio delle istituzioni. Perché chi sa qualcosa ha il dovere di dirla e non di lanciare delle parole vuote che fanno tanto campagna post-elettorale e che fanno tanto gioco delle parti. Allora, le istituzioni, lascio stare le smorfie fatte durante la parata o il ritardo in spregio anche dell'etichetta, ma in un certo senso, quindi bipartisan questo spregio delle istituzioni, non dico che conducano automaticamente, ma che si inseriscano nel quadro delle magliette che citava lei, esposte. Vabbè, sono cose molto diverse, Maurizio, non c'entrano, sì, scusi, la maglietta di Salvini e la... Cruciani, perdoni, io ravviso, posso essere contestato, ma ravviso lo stesso spregio delle istituzioni, è un parlamentare. Cioè, parliamo di cose diverse, scusi, sì, quello che ha detto Berlusconi sul complotto, quello che ha detto Berlusconi sul complotto, quello che ha detto D'Alema sulle scosse nel caso in cui Berlusconi dovesse lasciare o dovesse essere in declino, e la maglietta di Salvini. Francamente non ci trovo nessun collegamento con la maglietta di Salvini. Lei dice lo spregio delle istituzioni. Siccome Giancarlo d'accordo. Siccome Giancarlo Guenzi ha intervistato Massimo D'Alema a Rede TV la settimana scorsa, dove è stata per la prima volta tirata fuori questa questione delle scosse, che voleva dire D'Alema con le scosse? Non c'ero io in studio con D'Alema, però insomma, siccome collaboro con Rede TV, ero lì, ero presente. Ma io ho l'impressione che D'Alema, per come lo conosco e diciamo per il suo modo un po' obliquo di ragionare, quando parla di scosse nel governo, secondo me come interlocutore ha soprattutto l'opposizione, ha soprattutto il Partito Democratico, cioè dice a Franceschini, dice al Partito Democratico, attenzione, questo governo zoppica, ha mille difficoltà, ha divisioni interne, si è letto sui giornali, difficoltà di rapporti tra i coordinatori, eccetera. Quindi dice, guardate, che questo è il momento per fare politica, questo è il momento per svegliarsi, la maggioranza non è quel monolite che pensavate, Berlusconi non è quel raccattavoti assoluto che tutti temevamo, può avere anche lui qualche defiance, approfittiamone, facciamo politica, offriamo all'elettorato, ai nostri iscritti, ai futuri membri del congresso del PD un'alternativa politica, una proposta politica. Mi sembrava un liscio e busto nei confronti del suo partito più che non l'evocare appunto ancora una volta il complotto. Lorenzo da Viterbo, buonasera. Buonasera a lei, Cruciani. Due Dica. Cose velocissime. La prima cosa riguarda forse l'archiviazione sui voli di Stato, forse ho capito male, non lo so. Comunque, francamente, come al solito, come dice tutta la minestra di scaldata, il potente fa e disfa e tutto va tranquillamente. Ma scusi, c'è stata un'archiviazione, che c'entra? Beh, Vangelo, via, e poi capita un poveraccio magari che porta la moglie magari durante la giornata, non so, a fare la spesa, viene licenziato e messo così, come dice, in prima pagina come il famoso dipendente Pandurone. Comunque, ma mi scusi Lorenzo, qui c'è stato un inizio di un'inchiesta, poi c'è stata un'archiviazione perché su ognuno di quei voli segnalati all'autorità giudiziaria c'era una persona che poteva essere su quel volo perché aveva un ruolo istituzionale o comunque aveva diritto, sì, a stare bene, su quel volo. Punto e basta, punto e capo. Va bene, via, abbiamo già capito. Comunque la seconda cosa è questa. È una polemica nei suoi confronti. Cortesemente, sì, le posso chiedere gentilmente, sì, quando un utente la chiama, di essere più cortese, quando magari le idee di questo utente non sono come le sue eventualmente? Accolgo volentieri alla sua richiesta, posto che il problema esista, perché il problema non esiste. Comunque raccolgo la sua richiesta, ma il problema non esiste. Lorenzo, la ringrazio. Senatore Pietro Ichino, buonasera. Buonasera. Senatore Ichino, l'ho chiamata per un motivo molto semplice, perché la notizia della condanna nei confronti dei brigatisti sabato scorso e del risarcimento nei suoi confronti è passata, insomma, già da qualche giorno, un po' inosservata direi dai media, forse c'era il weekend eccetera, però è successa una cosa. Lei ha chiesto nei confronti di queste persone un incontro, dicendo loro: io sono pronto a ritirare la mia costituzione di parte civile nel processo, questo dicevo all'inizio del processo, ora dico, sì, sono pronto a rinunciare al risarcimento a cui siete stati condannati nei miei confronti, a condizione che ci si possa parlare, guardare negli occhi e io possa avere da voi il riconoscimento di me come appartenente alla vostra stessa specie, quindi come persona e non come bersaglio su cui sparare. Se sostenete, come i vostri avvocati hanno sostenuto nel processo, che tutta questa accusa che vi è stata mossa è una montatura della polizia, non dovreste avere difficoltà a questo riconoscimento reciproco. Per tutto il processo non c'è stata alcuna risposta, l'unica risposta è venuta proprio l'altro ieri dai loro avvocati, che hanno detto, per me incomprensibilmente, la sentenza non è ancora definitiva e Ichino dovrebbe saperlo. Ma che cosa significa questa risposta? Cosa vorrebbe dire? Che se la sentenza diventa definitiva mi riconoscete il diritto di vivere, di libertà di vedere? No, c'è qualcosa di... No, c'è qualcosa di non più... è definitiva e sospendete questo riconoscimento. Io non riesco veramente a capire in che logica. Beh, magari perché gli avvocati si aspettano naturalmente che in appello le cose possano cambiare, ma questo non c'entra nulla con la natura del suo invito. Allora, che cosa significa? Che se venissero accolti non mi riconoscerebbe, se venissero assolti dal giudice, allora un riconoscimento reciproco del diritto a esistere e a manifestare il proprio pensiero non verrebbe, non sarebbe più attuale, non sarebbe più necessario. Mi sembra poco logica questa. No, tra l'altro c'è un'altra cosa che è accaduta, lei lo sa benissimo, che una risposta al suo invito al colloquio, a parlare, a mettersi uno di fronte all'altro su uno stesso tavolo e a riconoscersi come persone umane, è venuta da un centro sociale che fa un po' da cassa di risonanza a queste persone, e nel sito di questo centro sociale, che si chiama Gramigna, è apparsa ancora una volta una frase che è stata spesso ripetuta da alcuni militanti del Partito Comunista Politico Militare, cioè Pietro Ichino come massacratore di operai, almeno così riportavano i giornali anche ieri e anche oggi, in particolare Il Giorno. Lei ha letto questa cosa? È un insulto, neanche un'accusa, un puro e semplice insulto che mi viene rivolto. Anche su questo ho chiesto loro di poter avere un confronto, poter discutere con loro, poter capire che cosa intendono quando parlano di massacratore di operai e poter difendere invece le mie idee, le mie proposte. Tra l'altro, la cosa più sorprendente, come ho sempre fatto, perché in università è capitato, sì, anche qualche volta che qualche studente mi abbia rivolto delle critiche, ma anche molto aspre, e qualche volta anche al limite dell'insulto. Ho sempre discusso con gli studenti e la discussione ha sempre portato a capirsi, a magari ovviamente resta il dissenso, ma perlomeno si superano gli equivoci e, certo, si superano delle posizioni che non hanno alcun senso. Perché, ecco, la cosa che mi ha sorpreso di più è che questa frase è stata ripetuta non tanto dalle persone che sono dietro le sbarre in questo momento, che sono state condannate, è sempre una condanna di primo grado e dunque noi siamo ultra garantisti, però ma da questi amici e parenti, da persone che li appoggiano dall'esterno, che ripetono sostanzialmente le stesse accuse che poi hanno fatto loro. E questo, ma questo quello che mi ha colpito più che altro è un cliché, è un rito, una sorta di lugubre rito politico che queste persone continuano a celebrare, negando che questo comporti una minaccia fisica e dimenticando che con questi stessi riti e queste stesse parole si è sviluppata per negli ultimi 30 anni una strategia sanguinaria che ha portato all'assassinio di decine, anzi centinaia di persone. Lei non si è pentito di aver fatto quell'appello al dialogo, di aver dopo aver letto di nuovo queste parole su questi siti eccetera, di aver detto beh, vi voglio incontrare? No, non me ne pento, continuerò a proporlo fino a quando potrò, perché io ho sperimentato che dovunque ho potuto parlare e discutere con i miei avversari, con i miei detrattori, la ragione ha finito col prevalere, il riconoscimento reciproco della buona fede c'è sempre stato e io sono pronto persino a riconoscere a loro la buona fede. Io posso capire il dramma esistenziale di chi sceglie professore, ma questi fanno proclami da la questi fanno proclami della lotta armata, ma quello che non sopporto è che mi si accusi di malafede mi si accusi senza alcun argomento, senza accettare un confronto. Con queste persone non sono riuscito ad avere alcuna possibilità. Forse perché è impossibile, forse perché è impossibile. Io dico. Però vede, impossibile. Comincio a sospettare che sia impossibile. Sono persone umane anche loro e io. No, certo, certo. E io credo che la scintilla dell'umanità non è mai spenta neanche. Professore, sono Giancarlo Quenzi, sono ospite anch'io in questa trasmissione come lei. Posso farle un appunto? Sì. Io ho l'impressione che in questo suo desiderio di comprensione, di essere capito e di comprendere, possa nascondersi anche una punta di narcisismo, diciamo, professorale proprio, no? Che faccia parte di una sorta di deformazione professionale, la forza del logos, della parola che deve comunque a tutti i costi prevalere anche dove invece regna il caos. Potrebbe essere, come dire, appunto un po' una deformazione professionale che la spinge a non vedere l'evidenza dei fatti, che oltre un certo limite anche le parole non hanno più potere. Però vede, io capisco questa critica e non intendo respingerla, perché capisco che coglie un aspetto importante della realtà, è vero, però le chiedo: qual è l'alternativa a mantenere questa linea? L'alternativa è chiudere porte e finestre e abbandonare ogni possibilità di... Le porte e finestre sono chiuse, l'alternativa è smettere di bussare, forse. Significherebbe sancire uno stato di guerra. Io non sono in guerra con nessuno e non rinuncio a cercare la pace anche con chi mi fa la guerra. capisco che questo mio atteggiamento può apparire molto ingenuo, e però posso dirle questo, che alcune lettere, alcune manifestazioni che mi sono venute da persone molto vicine agli imputati, ai nuovi brigatisti, mi hanno incoraggiato a continuare. Sono lettere di grande sofferenza, messaggi di persone che hanno capito quello che desidero comunicare e hanno capito che in questo mio desiderio c'è anche una comprensione nei confronti dello stato d'animo e ripeto, del dramma esistenziale di queste persone. Io non mi ritengo migliore, intrinsecamente migliore di loro, e credo che alla lunga anche il seme che oggi non dà frutto possa darlo sulla distanza. La ringrazio, buona serata professore. Grazie a voi. Grazie, presto. Buonasera. Andiamo a Milano. Ciro, buonasera. Sì, eccoci, buonasera dottor Cruciani. Senta, io brevemente volevo intervenire su quella polemica, non so se è una polemica o se è una notizia che non ho capito bene, sui vigili urbani. Sì, a Napoli sembra che si faccia carriera facendo più multe. Io ho detto all'inizio che secondo me, senza metterlo per iscritto come sta tentando di fare il vicecomandante della Polizia Municipale di Napoli, pare in disaccordo con il comandante, è una cosa che avviene più o meno ovunque. Ovunque. Eh beh, ma se noi non parcheggiassimo più le macchine in divieto di sosta e rispettassimo i limiti di velocità, avremo un sacco di vigili urbani sì, e di carriera. Questo è un altro discorso però, Ciro, su questo non c'è dubbio, però il fatto di legare la promozione, in alcuni casi anche lo stipendio, per quello che riguarda gli ausiliari, secondo quello che ci hanno raccontato diversi ascoltatori, solamente alle multe o comunque in gran parte legato alle multe, questo mi sembra una perversione, insomma, del sistema. No, ok, su questo sono d'accordo. Però io ho sentito molti ascoltatori che si lamentavano delle troppe multe che vengono dati, però nel momento in cui prendi una multa, al 90% dei casi sei in difetto. Sì, no, ma ho capito. I titoli della 7 per iniziare. Iran, i morti non fermano la protesta. Per evitare altri scontri, il riformista Mousavi sposta a domani la manifestazione prevista per oggi, in concomitanza con quella dei seguaci del presidente Ahmadinejad. Le autorità, le elezioni non si ripetono, sì al riconteggio parziale dei voti. La Procura di Roma chiede l'archiviazione dell'inchiesta sui voli di Stato del Presidente del Consiglio e rimanda gli atti al Tribunale dei Ministri. Sugli aerei dove avevano viaggiato gli ospiti di Berlusconi, sempre presente a bordo una personalità titolata a usufruire del servizio. La protesta dei terremotati d'Abruzzo arriva a Roma, un migliaio di aderenti ai comitati cittadini chiede più trasparenza e velocità nell'erogazione degli aiuti. Il governo mantenga le promesse, dicono i manifestanti. Confederations Cup, gli azzurri partono col piede giusto, battuti 3-1 gli Stati Uniti con una doppietta. Andiamo della a sentire rivelazione anche il TG5, TG5. Piena intesa tra Obama e Berlusconi, i più forti legami tra Italia e America. Obama, Berlusconi è un grande amico e mi piace personalmente. Collaboreremo come con Clinton e Bush, dice Berlusconi, che ha avuto anche un lungo colloquio telefonico con Putin. Tensione alle stelle nelle piazze di Teheran. Da una parte i sostenitori di Ahmadinejad, dall'altra migliaia di oppositori riformisti. L'Ayatollah Khamenei, ricontare i voti se necessario. Voli di Stato, la Procura di Roma chiede al Tribunale dei Ministri di archiviare gli atti sul Premier. Su ogni volo era presente una persona titolata a usufruirne. Istat, inflazione allo 0,9%, ai minimi dal 68. Monito dell'antitrust, non siano i consumatori a pagare le conseguenze della crisi. Ucciso per errore dalla camorra, un romeno agonizzante alla stazione di Napoli tra l'indifferenza dei passanti. A Trapani presi i protettori del boss Messina Denaro. A 10 anni dalla morte di Raissa, Mikhail Gorbachev canta in ricordo dell'amore per lei. Per ascoltare il disco di Romanze, donazioni ai bimbi leucemici. Già raccolto 1.700.000 sterline. Va bene, dato che ci siamo, anche il TG1. Premier soddisfatto per l'incontro con Obama, che dice Italia alleato cruciale, Berlusconi mio amico, grande sintonia su molti temi. Caos in Iran, a Teheran manifestazioni per Ahmadinejad e per i riformisti, il governo imbavaglia la stampa straniera. CSM respinge le dimissioni dei tre consiglieri in polemica con il ministro Alfano. Napolitano sulla giustizia, confronto costruttivo. Asfissiati nel depuratore, la denuncia dell'Istituto per la sicurezza sul lavoro, rischi sottovalutati e leggi non rispettate. Ucciso tra l'indifferenza, agghiaccianti, immagini di un raid di camorra a Napoli, vittima un rumeno colpito per errore. Piscine salva estate, chi può se la fa costruire in giardino, e per chi non va al mare un tuffo a pochi euro in quelle pubbliche. Va bene, sempre 800 24 00 24, riprendiamo con gli ascoltatori. Marina da Bologna, buonasera. Buonasera a lei, felicissima di parlarle. Dica. Volevo fare una piccolissima precisazione sull'argomento che riguarda la mia città. Sì. Ne siamo usciti malissimo, purtroppo la cosa che è successa è deprecabilissima, però cioè cosa? Non è... Com'è? Cosa è successo? Questo scambio di... questo scambio di cose fra Del Bono e Cazzola. Però vorrei dire una cosa, non è che si sia brutalmente parlato di vita privata di uno dei candidati, come vita privata banale, si è parlato di ben altro. E vorrei che fosse chiaro questo. Cioè, sì, perché a un certo punto Cazzola... Perché a un certo punto Cazzola ha detto sulla moralità bisognerebbe chiamare l'ex compagna di Del Bono a riferire. Sì. Allora ne verrebbe fuori un quadro diverso. All'inizio sembrava una questione di letto, diciamo, no? Mentre invece non lo è assolutamente. Si parla di spese effettuate da lui a scapito del comune o della regione. Vero o non vero che sia, lo verificheranno successivamente, però non era una squallida storia di letto o di cose di questo genere. Quindi sì, però il modo in cui è stata impostata, Marina, mi scusi, in una trasmissione radiofonica, poi c'è stato anche una replica ad una televisione privata, credo bolognese, il modo in cui è stata impostata durante questo confronto radiofonico da Cazzola, oggettivamente, secondo me, è stato anche di cattivo gusto, perché a un certo punto io lascio perdere gli attacchi precedenti che ci sono stati, non seguo quotidianamente la campagna elettorale di Bologna, probabilmente ci sono degli attacchi nei confronti di Cazzola, non c'è dubbio, anche da parte di Del Bono, però dire guardi, poi io so delle cose e sulla sua moralità dovrebbe parlare la sua ex compagna, questo non mi sembra una cosa eccezionale come momento di campagna elettorale, no? È assolutamente deprecabilissimo, detto male, uscito male, però mi creda, è il risultato anche di mesi di coltellate da dovunque, per cui sa, non, ripeto, non lo giustifico, non mi piace nemmeno che le cose vadano in questa maniera. A Bologna non è mai successo, ci siamo sempre battuti al limite con molta lealtà, purtroppo questa volta i candidati non sono leali, nessuno. E quindi non è che voglio difendere uno a scapito dell'altro, non sono leali, e a slealtà purtroppo ci si difende anche così. Brutta cosa, però vediamo poi che cosa c'è di vero sotto, perché ritengo comunque che se determinate cose sono state dette anche male, anche nel momento sbagliato, probabilmente qualche cosina sotto sotto ci sarà e l'andremo a vedere. Vabbè, cara Marina, lei mi sembra che nasconda una leggera simpatia per il candidato del PDL nei confronti di Del Bono. La ringrazio. Fulvio, provincia di Milano, buonasera. Buonasera a lei. Ci tenevo a fare una considerazione e una testimonianza, entrambe riguardo dell'onorevole Salvini. La considerazione riguardo che ha inventato la maglietta della non realtà. Cioè è reale in quanto maglietta, non è reale in quanto messaggio, quindi non esiste in sostanza. Ma spesso le magliette però danno messaggi di questo tipo, non certo particolarmente attinenti alla realtà. Non è che bisogna cercare negli slogan delle magliette delle cose che hanno aderenza con la realtà. La testimonianza invece voleva essere che l'onorevole Salvini, il signor Salvini, come meglio si può chiamare, nel 2002 era uno tra quelli che esultava quando l'Italia fu eliminata dalla Corea del Nord ai mondiali. Ora mi chiedo dove vive l'onorevole Salvini per esultare. Io ero lì perché facevo una sostituzione per lavoro in sede in quei giorni a Telepadania e mi fece venire un veleno che non ne ha un'idea. Quindi sì, ma sentimenti anti-italiani non sono solamente annidati nella Lega. Spesso in Italia c'è questa sorta di sport nazionale a fare il tifo contro... La Lega ci ha costruito una politica. Questa è l'unica differenza. Sì, la Lega ci ha costruito la politica, però i sentimenti anti-italiani sono annidati un po' ovunque, insomma, nella, no, e non solo, nella, non solo nella Lega. La ringrazio. Antonio da Napoli. Pronto, buonasera. Dottor Cruciani, complimenti a lei e alla sua trasmissione. Che dica. Io seguo tutte le sere al ritorno dal lavoro ed è una delle poche trasmissioni che riesco ancora a sopportare, mi permette il termine. Niente, volevo speriamo che la cosa duri un altro po', insomma, speriamo per fra un po' non ci fra un po' non sopporta nemmeno la zanzara e così non sentirà più. Speriamo di no, perché vorrà dire allora che mi dovrò chiudere in un eremo. Senta, no, volevo dire la mia sull'impatto che secondo me i comportamenti della nostra vita privata devono avere sulla vita pubblica e sul ruolo in particolare delle persone che hanno un ruolo nel pubblico. E, cioè, il caso Mosley ha imposto secondo me un interrogativo all'opinione pubblica, nel senso che ciascuno di noi si deve porre una domanda. Faremmo fare al signor Mosley o a persone come lui, il professore statale o il maestro di scuola materna, quindi pagato con i soldi dei contribuenti, ai nostri figli? Ma nella maniera più sincera e assoluta, senza no, Antonio, cosa, il punto chiedo, è un altro. Innanzitutto, Mosley. Non so se lei ha dei figli, ma se avesse dei figli, lei farebbe fare a persone che lei sa, insomma, nel senso che hanno fatto nel loro intimo, pur se all'interno delle loro mura, hanno fatto cose che noi in qualche maniera riteniamo riprovevoli. Cioè, io le dico perché io faccio il professore, quindi voglio dire qualcosa ne so, nel senso che so bene che alcuni ruoli ricoprono un ruolo cruciale per certe attività. Allora, analogamente, così come lei si è scandalizzato, ed io giustifico il suo atteggiamento davanti ai docenti che non hanno permesso di parlare al ministro dell'istruzione, la nostra Gelmini, dovrebbe scandalizzarsi, secondo me, se un docente nel privato fa cose raccapriccianti o comunque al limite della decenza. No, mi scusi Antonio, innanzitutto c'è una distinzione da fare. Mosley ha vinto una causa in tribunale contro News of the World, giustamente per un sacco di soldi, e ha difeso con le unghie e con i denti un principio fondamentale, cioè che ognuno nel privato fa quello che vuole. Si è fatto frustare vestito da nazista, non mi ricordo se era vestito lui da nazista o chi lo frustava, perché traeva da questa cosa piacere sessuale, lo ha apertamente dichiarato e ha difeso il fatto che nella sua vita privata uno può fare quello che vuole e non c'è diritto da parte di nessuno di intromettersi in questa vita privata e soprattutto poi di spiattellarla con un video e con delle foto sui giornali di tutto il mondo. Dopo una lunga battaglia, chiunque nelle sue condizioni si sarebbe dimesso, se ne sarebbe andato il giorno dopo, è stato attaccato da un sacco di gente anche all'interno della Federazione dell'Automobilismo, è lì ancora fermo, stabile, soprattutto per aver fatto di questa vicenda una questione di principio. Ora lei mi chiede, a chi fa queste cose nella sua vita privata farebbe fare l'insegnante? Io dico sì, assolutamente sì, anche perché non so francamente. Questa storia dell'insegnante è poi una cosa molto pericolosa, perché io ricordo come 15-16 anni fa Fini se ne uscì dicendo che i gay non potevano fare gli insegnanti. Poi se ne è pentito, ha cambiato idea, anche se forse non l'ha nemmeno detto. Quindi io consiglierei al nostro ascoltatore, a tutti, cioè di giudicare gli insegnanti per come fanno gli insegnanti, i medici per come fanno i medici, gli avvocati per come fanno gli avvocati. E io non manderei mio figlio da un cattivo insegnante, non mi farei curare da un cattivo medico, non mi farei patrocinare da un cattivo avvocato. Quello che poi fanno a casa non ha niente a che fare, io voglio il risultato rispetto al servizio che in quel momento pretendo anche da cittadino. Non è affatto detto, e non vedo dove sia il collegamento tra farsi frustare ed essere un cattivo insegnante, insomma, non sta scritto da nessuna parte. Magari c'hai insegnanti morigeratissimi che conducono vite private che assolutamente che poi magari non sono capaci di parlare con gli studenti, di trasmettere nulla, quindi giudichiamo per quello che fanno. Antonio, voglio una risposta da lei su questo. Allora, la risposta di Antonio da Napoli, anzi la conclusione diciamo dell'ascoltatore da Napoli, prego. Io sono contento che abbia interloquito anche il suo gentile ospite. Io poi dico la mia, naturalmente mi posso sbagliare, ma in linea del tutto teorica, è chiaro che io giudico l'insegnante, il medico, il politico per quello che fanno, è chiaro, ma è altrettanto chiaro che un insegnante o un politico che predicano bene e poi nel concreto si comportino in maniera difforme, secondo me non sono né bravi insegnanti né bravi politici. Credo che almeno noi, comuni cittadini, che non facciamo parte, come dire, dell'entourage di coloro che in qualche maniera dicono la loro nel campo dell'informazione, nel nostro piccolo non dobbiamo, come si dice dalle parti nostre, sbracarci. Nel però senso mi scusi, che... guarda, il razzolare bene, cioè il predicare bene, il razzolare male, è ancora un'altra fattispecie. Non è che Mosley facesse delle campagne contro la prostituzione o contro l'essere frustati. Lo faceva e non diceva niente di questo. Infatti, quindi il fatto di predicare bene il razzolare male è tutta un'altra questione sulla quale si può essere anche un po' più d'accordo. Se posso concludere un attimo il discorso. Dica. Io volevo solo concludere, poi naturalmente se volete ne parlate tra di voi o con altri gentili ascoltatori. Io capisco che il politico o colui che diciamo detiene in qualche maniera il potere, che si comporta naturalmente male, ha tutto l'interesse a non mollare l'incarico che ha ricevuto, ma almeno noi comuni mortali dovremmo scandalizzarci o non essere arrendevoli o indifferenti a quelle persone che nella loro vita privata fanno cose deprecabili, disdicevoli o comunque per noi assolutamente riprovevoli, anche con insomma, poi naturalmente loro diranno la loro nei tribunali, avranno anche la ragione. A chi si riferisce però, Antonio? Si riferisce a qualcosa in particolare? No, perché sennò ti metti adesso un discorso così appeso. Sa cosa mi riferisco? Spesso lo sento anche magari nelle trasmissioni radiofoniche, anche qualche ascoltatore suo, come dire, davanti al poiché non possiamo fare molto per affermare che bisogna essere moralmente ineccepibili, allora preferiamo dire vabbè, ma insomma loro nel privato possono fare quel che vogliono. Secondo me, se uno nel privato, come dire, si comporta in maniera riprovevole, secondo me, ripeto, può darsi che mi sbagli, però nel mi faccia un esempio di comportamento riprovevole in privato, non riesco a capire se no dove qual è il termine lei di paragone. Lei vuole trascinare in un discorso politico, io non ne voglio fare un discorso. No, ma non è un discorso politico, tutt'altro, io le sto chiedendo di farci un esempio, altrimenti... Perché io la seguo tutte le sere. So bene, Antonio, spero che continuerà a seguirmi, però adesso c'è il traffico. Sì. Siamo in collegamento con Paolo Limonta, che è maestro di una scuola elementare di Milano, che era presente ieri alla contestazione nei confronti del ministro Gelmini. Buonasera. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Senta Limonta, lei ha rivendicato oggi il diritto a essere antidemocratico. Sono stato antidemocratico e allora guardi che stanotte dormirò lo stesso, farò sogni tranquillissimi e continuerò, come dire, a seguire il ministro Gelmini ovunque vada per non farla parlare, più o meno è così, o comunque per dire quello che penso e per contestarla. Dunque, intanto io non parlo a livello personale, ovviamente. Io e a livello di cosa? Sono un insegnante elementare e a Milano lavoro insieme a molti altri insegnanti elementari e a molti altri genitori. Mm. E per tutto quest'anno noi abbiamo cercato di trasmettere a tutti quelli che vivono un po' al di fuori del mondo della scuola il fatto che l'intervento che il ministro Gelmini ha programmato per le scuole di ogni ordine e grado in Italia è un intervento che noi riteniamo devastante e molto penalizzante per la scuola italiana. Ma questo qua fa parte, come dire, della normale dialettica che c'è tra associazioni di professori, di maestri, eccetera, e il politico, diciamo, il ministro in questo caso. Esatto, ora, però il principio è un altro, sì, signor Limonta, è questo. Critica. Quando lei dice la soddisfazione più grande è vedere che il ministro si innervosisce e se ne va via, come oggi. Quando lo racconterò ai miei allievi saranno contenti. Poi lei dice: io sono dalla parte dei bambini e difenderò il loro diritto a frequentare una scuola di qualità. Evidentemente lei pensa che la Gelmini invece non vuole una scuola di qualità o faccia delle cose che mettono a repentaglio la scuola di qualità. Insomma, qui si passa su un piano diverso, perché il punto non è che lei abbia tutto il diritto a manifestare il suo dissenso nei confronti del ministro Gelmini. Il punto è voler impedire, in questo caso, come è successo ieri, che ci sia la presentazione di un libro, che il ministro parli, che si irriti o no. Noi non volevamo impedire che ci fosse la presentazione di un libro. A questo proposito mi preme ricordare che noi, come diciamo movimento per una scuola di qualità, è dal primo di settembre che abbiamo chiesto, proprio nell'ambito di un confronto democratico, al ministro Gelmini di confrontarsi con noi, con le rappresentanze sindacali, con le rappresentanze dei genitori e degli studenti, e questo confronto ci è sempre stato negato. Il ministro Gelmini non ha mai accettato di confrontarsi con noi nel merito delle sue proposte, ha presentato le sue proposte in Parlamento, tra l'altro non ha mai accettato neanche di confrontarsi con il resto del Parlamento sulle sue proposte, perché la legge 169, che è la famosa legge Gelmini, che è stata una delle prime leggi che sono state approvate, è stata approvata col voto di fiducia senza discussione alla Camera. Quindi sì, però ovviamente lei sta entrando nel merito, sulla democrazia si potrebbe fare un discorso. Noi ieri non siamo andati a impedire la presentazione del libro di l'effetto Giordano, è stato questo, però l'effetto che è stato poco del mondo della scuola. È stato questo. No, noi ieri siamo andati a consegnare al ministro Gelmini la pagella che le maestre e maestre, le professoresse e i professori, le mamme e i papà di tutto il paese Le hanno consegnato per non si piccherà di rappresentare gli studenti, le mamme di tutto il paese, abbiamo pazienza, i genitori di tutto il paese. Io rappresento me stesso e una parte di quelli che lavorano quotidianamente con me. Quindi io non sto contestando il fatto che lei ha diritto a fare tutte le proteste che vuole. A me sembra strano che uno possa trovare soddisfazione, a come ha scritto oggi il giornale in una sua intervista, nel dire il punto è poter dire al ministro: guarda che non puoi andare in giro senza pagare un prezzo. Guardi, io non ho visto, non leggo il giornale, quindi non ho visto questa intervista di cui lei mi parla. Il giornale, in tutte le iniziative che noi abbiamo fatto quest'anno in difesa della scuola pubblica, ha sempre riportato le nostre posizioni in maniera molto faziosa. Vabbè, lei ha detto di essere stato antidemocratico. Io ieri ho detto che di fronte alle accuse di antidemocrazia che ci sono state lanciate da un ministro che ha rifiutato fino adesso il confronto democratico con chiunque, non mi spaventava il fatto di essere qualificato da queste persone come un antidemocratico, perché la mia storia e tutto quello che noi abbiamo fatto quest'anno dimostra che noi siamo assolutamente dalla parte della democrazia. Scusi un attimo, però io siccome ci sono poi le sedi per parlare della riforma della scuola, in quell'occasione c'era la presentazione di un libro. Di un libro sulla scuola, evidentemente, altrimenti non ci sarebbe stato il ministro Gelmini là, se non fosse stato un libro sulla scuola. Appunto. Ho capito, l'effetto di questa, diciamo, di questa specie di manifestazione, di protesta, eccetera, tra l'altro è stato dato del Servo, adesso non so se l'ha fatto lei o persone che lei conosce, a Mario Giordano. Ormai è un'abitudine dare del Servo a qualcuno, per cui parola gravissima. Insomma, l'Italia è un paese in cui la servitù è abbastanza praticata, non è che... Ah sì, lei dice. Magari, siccome il ministro Gelmini dice che noi insegnanti e genitori siamo servi della sinistra, eccetera eccetera, quindi voglio dire, vabbè, no? Adesso non è che, cioè, qui non ci sono persone vergini che catapultate nel mondo della politica, poverine, eccetera eccetera. Qui c'è, ognuno gioca la sua partita e la gioca nel modo in cui ritiene necessario giocarla. Infatti noi per tutto quest'anno abbiamo fatto iniziative di profondissimo spessore culturale, eccetera, e siamo stati abbastanza ignorati dalla stampa. Siccome ieri siamo andati a contestare rumorosamente, guarda caso tutta la stampa si sta occupando di quello che abbiamo fatto. Forse anche questo significherà qualcosa, no? Può darsi, non lo so. Io penso di sì. No, così, lei pensa di sì, e pensa appunto che ci sia una sorta di complotto per non far passare le vostre proposte nel momento di complotto parlano altri. Io non ho parlato assolutamente di complotto. Io dico e ritengo che ci sia stata una sottovalutazione rispetto all'impatto di una riforma sulla scuola. Sì, ma questo può darsi, però le chiedo una cosa, c'erano un po' di persone ieri che volevano ascoltare questo dibattito sulla scuola, persone che hanno anche protestato. A lei non gliene frega niente del fatto? A me ne frega, tant'è vero che noi una volta che abbiamo consegnato la pagella al ministro Gelmini, eccetera, se lei guarda anche i video, eccetera, ci stavamo togliendo di lì per andarcene. Siamo stati preceduti dai tre relatori che hanno deciso dopo 10 minuti di contestazione che valeva la pena andarsene e non rimanere più lì, perché noi, tra l'altro, faccio presente che quando noi abbiamo deciso di andarsene, la colpa è di quelli che se ne sono voluti andare, non vostra che avete protestato. Va bene, non ho capito. La colpa del fatto che questa presentazione del libro, poi adesso non voglio nemmeno esagerare la presentazione del libro, però comunque un appuntamento cui si era presentata anche dell'altra gente che non voleva chiasso ma voleva ascoltare, la colpa, lei dice, è la e delle persone che a un certo punto hanno deciso di non presenziare più all'incontro, il relatore, non vostra, che avete protestato. No, io non sto dando la colpa a nessuno, io rivendico il fatto di poter seguire continuamente il ministro Gelmini per far presente che sta sbagliando. Io non ho nessunissimo problema. Se il ministro Gelmini vuole confrontarsi, non dico con me, con qualunque insegnante o genitore della scuola italiana nel merito delle proposte che ha fatto, delle sono cose proposte che sono già che passate avanti, noi siamo sempre disponibili. È il ministro Gelmini che non è disponibile. Quindi, non essendo disponibile, quando un ministro decide di fare un intervento così pesante sulla scuola, stiamo parlando di 140.000 persone che non avranno il posto di lavoro in 3 anni, non stiamo parlando di chissà che cosa, stiamo parlando di interventi pesantissimi sulla scuola italiana. Sì, però di Limonte, il punto è un altro. Lei dice: è bello zittire il ministro, domani lo dico ai miei allievi. No, ma quella è una cosa che ha scritto la giornalista. Domani ai miei allievi non posso dire niente, perché fortunatamente per loro i miei allievi sono in vacanza e quindi non c'è problema. Non è bello zittire il ministro, è bello far capire al ministro che pensa che questo sia un paese dove si approvano le leggi in 20 giorni col voto di fiducia senza discuterle in Parlamento. Sì. È bello far capire al ministro che il movimento per la difesa della scuola di qualità c'è, esiste e ci sarà sempre, e se è necessario andrà a contestare il ministro nelle forme della democrazia. Guardi che la democrazia è anche la possibilità di contestare gli altri. La democrazia non è l'asservimento e l'obbedienza cieca ed assoluta. No, ma non è questione di obbedienza e di asservimento. Non lo so. È questione... Secondo me la democrazia, quando io lo vado a chiedere anche alle persone che volevano sentire tranquillamente sedute quel convegno, che non hanno potuto farlo. Dico che non c'è nessunissimo problema. Se Giordano e la Gelmini dovessero decidere di ripresentare il libro settimana prossima, noi ci asterremo dal presentarlo. Va bene, grazie, arrivederci. Grazie a lei, arrivederci. Intanto vedo delle immagini di Sky, incredibile vicenda della sparatoria di Napoli, dove un innocente è morto davanti alla stazione dopo una sparatoria, è rimasto lì agonizzante un romeno. Pare una vicenda di camorra. Titoli del TG2. Soddisfazione di Berlusconi dopo il faccia a faccia con Obama. Con lui, dice il premier, già rientrato in Italia, rapporti ottimi come con Bush. Per l'inchiesta sui voli di Stato sollecitata l'archiviazione. Alcuni sindaci abruzzesi ricevuti dai fini protestano davanti a Montecitorio, definendo inadeguato il decreto per la ricostruzione. Franceschini, disattesi gli impegni, replica Bertolaso: mai nella storia d'Italia ha fatto di più. Ancora ore drammatiche a Teheran dopo gli scontri di ieri, costati 7 morti, 2 cortei contrapposti pro e contro la rielezione di Ahmadinejad. I Pasdaran pronti a ricontare i voti, escluse nuove elezioni. Gli investigatori non escludono la pista dell'omicidio nel misterioso giallo della donna trovata morta sul fondo di una piscina in una villa a Porta Rotondo in Sardegna. È sempre più fitto il mistero della badante scomparsa con la figlia da 15 giorni a Gradoli. Parla ai microfoni del TG2 un'amica della donna: l'ho sentita al telefono una settimana fa. Eccoci qui, andiamo agli ascoltatori. Dove andiamo? Alessandro da Carrara, buonasera. Oh, buonasera, ho ascoltato... Ascolto sempre questa trasmissione molto volentieri. Visto che c'è pochissimo tempo, vorrei però lanciare, se mi è permesso, dai suoi microfoni un appello a tutti gli amministratori d'Italia. Ho ascoltato che sono stati archiviati i passaggi sui voli degli aerei, i voli di Stato praticamente, di amici. No, è stata chiesta l'archiviazione. Sì, esatto. Probabilmente poi passare sarà... questa archiviazione, sempre se lei me lo permette, o meglio consente, dai suoi autorevolissimi microfoni, vorrei inviare a tutti gli amministratori italiani un appello: trasportate e riempite le vostre macchine di servizio, di amici, di persone. Insomma, è un pochino deprimente vedere queste auto con l'autista e solamente voi al loro interno. Tra l'altro io ho fatto per un periodo l'amministratore e devo dire che non potevo portare con me altre persone all'interno dell'auto di servizio, perché questo era praticamente vietato, non c'era l'assicurazione, non vi erano le donne, non si poteva sostanzialmente, almeno questo che mi diceva l'autista. Per cui, se mi permette, questo appello dovrebbe essere in un certo senso anche verso un trasporto più ecologico, cioè riuscire a far riempire queste auto di persone, così le potremo vedere circolare per la città, non più con queste due persone, ma non so, a pieno organico. Cosa a pieno organico. No, Alessandro, dunque, secondo lei è giusto che su macchine pubbliche, diciamo, aerei, vettori pubblici, siano essi macchine, aereo o quant'altro, è giusto che debbano salire solamente le persone che hanno un ruolo istituzionale, gli altri che vadano con mezzi privati, è così? Guardi, al di là della sua ironia, eccetera. Al di là di questo, certamente, perché vede, il problema è l'organizzazione. Se noi abbiamo alcune persone che sono capaci di organizzare così bene incontri di stati e feste, penso che non gli siano problemi e non abbiano problemi nell'organizzare i sistemi di collegamento tra le loro residenze e in questo caso il luogo dove avviene la manifestazione, anche se di Stato. Fa parte di quello che è proprio il concetto di organizzazione. Poi se si vuol fare di on air un fascio, mettere tutto insieme, fare le cose e utilizzare i mezzucci per, come dire, per convogliare, per non so. Ma questo non l'ho capito, che c'entra? No, c'entra perché, guardi. Cioè, quali sarebbero i mezzucci? Non ho capito. Dicendo mi porto dietro il mio menestrello, per cui non posso mandarlo via con un altro aeroplano, perché è più semplice o più comodo portarmelo da fianco. Io le dico con tutta franchezza che mi dispiace vedere queste macchine per la città con solo due, l'autista e l'amministratore in questo caso. Mi piacerebbe vederle piene anche di segretari e piene anche di, non so, studenti, altre persone che possono in questo caso interloquire anche con la persona che in quel momento ricopre un ruolo politico. Però se qualcuno vuol fare le cose fatte bene, penso che i voli di Stato dovrebbero essere lasciati a solo persone che istituzionalmente possono sedere su quei... Va bene, ho capito. Ecco, ho capito. La ringrazio. Buon lavoro. Angelo da Roma, buonasera. Buonasera. Dica. Senta, allora, premesso una piccola premessa, piccola rispetto al fatto dei vigili che avevo sentito, delle multe. Sì. Io ho avuto un papà che faceva il vigile urbano, era andato in pensione 6 anni fa qui a Roma e a mio padre nessuno ha mai fatto pressioni di fare multe, nel senso che io, questa è la mia volta. Ma infatti secondo me è un fenomeno questo addirittura della carriera attraverso le multe dei comuni che fanno cassa, è un fenomeno degli ultimi anni. Guardi, io comunque non credo che sia questo uno dei motivi, poi può darsi, sa, adesso è cambiato. Comunque a parte questo, senta, io ho chiamato per un motivo, forse dirò una cosa banalissima, e mi dispiace se forse no, alcuni ascoltatori, anche lei forse, lo vuoi ritenere banale quello che sto dicendo, però io ho 41 anni, sono sposato, ho due figli, ho un mutuo, cioè io sono una persona normale, ho un lavoro, mi ritengo una persona fortunatissima, ho una salute che mi aiuta, insomma, e sono contento, forse sono felice, insomma, ecco. E la banalità qual è? Mi sono messo nei panni di un ragazzo di 24, 25, 26 anni e ho detto, ma può un ragazzo di quest'età avere entusiasmo per la vita come lo posso avere io? E sentendo le notizie quotidianamente dai giornali, anche lei, insomma, anche la sua trasmissione, io non credo che possa avere entusiasmo, perché tutte queste notizie che vengono date, anche tutte queste cose, sono di una superficialità, non c'è entusiasmo. Io ritengo in questo momento della politica italiana, cioè lo strumento che dovrebbe in un certo modo garantire determinati tipi di servizi, una vita, una qualità di una vita soddisfacente, anche delle prospettive future, sia per i giovani ma anche per gli anziani, insomma tutto ciò che può fare. Però io non c'è. Io conosco molti ragazzi che lavorano con me, che hanno 10-15 anni meno di me, anche molti anni meno di me. Beh, lei vuole dire, mi scusi Angelo perché devo chiudere, lei vuole dire, prego, che la politica oggi non offre grandi disegni, diciamo, grandi non cose per niente, cui vale la pena, vale la pena, offre vale la pena niente, entusiasmarsi. Questo può niente, essere, va Angelo. Niente, la ringrazio, devo chiudere. Grazie. Andrea da Rimini, Vittorio da Piacenza, Giuseppina, la provincia di Cremona e altri ancora. Ci sentiamo domani 18:30. Ciao.